Web Radio Luzzi, in collaborazione con le auto blu ammassate in tutte le autorimesse comunali d'Italia, presenta un servizio per inculare il cittadino, il ring della politica locale. Signori e signori, a inizio Capate! Buonasera a tutti cari ascoltatori di Web Radio Luzzi, a questa nuova puntata di Capate, il ring della politica calabrese. Per oggi, per la prima volta, una sfida tutta al femminile. Alla mia sinistra, per il PD, Eva, detta Eva Catizzone. Grazie, grazie, buonasera, buonasera. Grazie. Alla mia destra, invece, silenzio, per favore, per il PDL, Katia Gentile. Buonasera, buonasera. Grazie. Che bionda finta. Zitta, bionda finta. Va bene, ora che l'incontro abbia inizio. Ah, scappa la mi piglia. Stai attenta. E siendo la chissà come parla, sì. E poi ti fanno un pochino i cosi, il like, così. Ma sai parlare, parla il microfono. Non sai parlare il microfono, parla ci tu questi cazzi a fai, ah! Tenga tu con il microfono ci cazzi tiene una bella esperienza. Ah, ma te! Con il microfono ci tiene una bella esperienza, parla tu. Te, ya, va, te, fammi via! Signora, ma che cazzo non da fare? Si calmi. Babbo. Buonasera innanzitutto, calma, voglio precisare. Oh, ma ci sta zitto, che stai parlando? Ha parlato con quattro d'ora. Ma ti ci sta zitto, eh! Ti ci sta zitto, ma buono! No. È proprio ciota, eh! Agor! E torna di più quello grave! E torna la tua casa mia! Ah! Ecco qua! E tu fai un picurare, Buonasera innanzitutto, voglio precisare che il mio curriculum politico rispetto alla mia anniversarietà politica è veramente di livello mondiale. Torn! Alla mia destra, spogliagati, Katia. Capito che non travestite che fai in marchette. E tu sei con un microfono, E tu sei che con un microfono, Dillo che sei amica di Nicki Minaj. Ogni ti posti che tu con un microfono dici che sa parlare, Oi cretina! Invece nel posto di casino. Signor la grande Katia Gentile, sì. I quattro giornata fa sembrare noi. Katia Gentile, molto gentile. Già migna chissà signore, già migna chissà. Ricati il miglio tuo, Sì, pure lei che ha fatto l'imprestatore. Ma mi piacere, tu è che non cazzo a me ti parta. E proprio a me! È proprio guarda, chi la caiuca con il microfono che ti posti, non preoccupare. Ha fatto un video già mai che ti ne rubato. E poi a proposito, no, tu mi fai super zocco, ma poi sboronando, Ha detto? Sbronando, Giupa! Ma ti spangio, ma sta zoccola in mezzo! Chi spangio che ti rinchiudo! Ma Buone! Miau! E chi si maruzzò, per favore, signore? Ferme, signore, calme. Ti faccio il microfono, calme. Regia, vogliamo la sicurezza la prossima volta. Calme. Passiamo ad argomenti seri. Ma chi è la mica vigilante? Ma che cazzo? Ma come cazzo parli? Ma ti fai, ma ti sembra giusto? E ne vai un po' tanto. Calma, calma. A me puoi allordare. Italiano a me. A me puoi allordare. Calma, calma, calma, calma. Signora Catizzi, signor Cati è gentile. Sai, figlia, però sei gentile. Sì, va buono, anche che non mi chiama di parte sempre, mi capito. Possiamo andare avanti, grazie, grazie. Basta. Basta. Tu vai a tenere di posti con un teca te lo giù mi basta. Ti regalo un signora Adamo, per calma. Adamo, scusi, mi scusi, è la love story. Adamo, era buono con me. Pure te, ti finisca. Pure tu il micro. Basta, basta. Pure tu il micro. Basta. Non ci ha fatto, che non ha fatto. Beh, senti che parla a me i soldi, eh. Cosa proprio? Basta. Signora Gentile, calma. Allora. Ci siamo? Ok. No. Si ferma. Secondo me come è buona! Ancora! E torna a parte! Posso fare una domanda seria per favore, grazie. Ma vediamo, sentiamo. Pare capito un ciclo tutti e due. Sì, sì, sì, sappiamo finalità giusta va buono, parla, se no sta allora, dicendo. Cosa proponente per superare questo periodo di crisi? Sordi. Secondo me. Prima la signora Categgi, prima ha parlato lei, ora la signora Categgi. Secondo me la crisi c'è sempre stata. Chi c'è? Signora. Però si può risolvere, almeno fino alla menopausa. Ma mi scusi. Ma perché tu pure la menopausa, tia? A dire tu. E va? Ti faccisca? A dire tu. E va? E va? Pare che si chiesce di noi di Pasqua. Venga, ti spiega, ci spiega sta crapa. Ma aspetta. Ma no, un attimo. Ma che cosa c'è? Aspetta. Signora, ma tu capisci pure la menopausa? Signora Catizzone, siamo qua per parlare di cose serie. Signora Catizzone, ecco. Ex sindaco di Cosenza. Ex sindaco. Io sì. Cosenza è comandato, no come sapete. Scusa Rinzo. Basta. Rinzo. Basta. Casa Maria che non ha chiamato tuo padre, già con i cazzo vi ha fatto una cosa. Non l'imbraccio tu. Era venuta e già come padre hai fatto l'imbraccio tu. Va bene, basta. Che lei è stato sindaco per 3 anni, poi purtroppo. Colpa della maggioranza che ha fatto sì, cadere. Va bene, ma volevo chiedere, ma che cosa. Chi sta dicendo stati cittadino padre? Ancora! Ma mi piace affimo! Basta, signora Catizzone. Allora mi consiglio io già vestito, che sei tu già vestito, Ah, grazie! Allora è a pigliare la raspa, pittare la allora. Si calmi signora. Un attimo. Si beva questo bicchiere d'acqua, sì, per favore, grazie. Allora, stiamo tornando a lei. Ma che cosa c'entra la menopausa, scusi? Allora, la crisi del ciclo mestruale, per noi donne c'è sempre stata. Non so ci vedete più a chiedere. Sì, parli. Donne quando i femmini diventano prene. Però, dopo che hanno sgravato, ha chiuso lo ciclo, fino alla menopausa c'è sempre. E lei, onorevole Catizzone, che cosa ha da dire? Senti, ma ci va, sai per finisci l'intervista, che mi signora tutta un poco un fringuellino. Tieni un appuntamento alla Beauty Center. Allora che non resta oggi. Alla piscina di Suarta. Allora che non resta oggi. Alla piscina di Suarta. Sta cosa loro. Che tieni una sessione di peeling. Peeling. Che spogliatoio, 30 gente. Che spogliatoio. A c'è quella raspata, mi viene a pulizzare. Ma chiami una cosa, ma perché gente come ti dà finito? Quale c'è? Un medico è andato a questa faccia. A proposito, quindi quando è che ne pagate scuse? Ma quale compenso? Su questo concordo. Ma quale compenso? Su questo concordo, fare i soldi. Fare i soldi, sennò ci andate pure tu. Ecco. Ma poi mi vuoi dire che è una coalizione questa zoppola, però capè, i soldi su sordo, ecco. Ma questo è un servizio pubblico, noi non paghiamo nessuno, è servizio per ingolare il cittadino, ma un po' lo paga, ma per favore! Ma ci sta, ma che ti c'è meglio con... Oh, ma ti c'è meglio! Ma che merda! E che non bronzi sa di parte! Dichiaro il match concluso, aiuto! Fisca. Arrivederci con Capate, il servizio da per ingolare il cittadino. Aiuto! Ma mi sa che... Perfetto. Mi sa che la prossima volta mi veni a pigliare un posto. Adesso così più bravo, zio.